le baci me li merito prima di dormire. Che Milano è bella pure con lo smog, cade un po' di neve sui fiori ad aprile, ma non ci sei. Trovo 1000 lire con su scritto vale, mi mancherai. Stella d'alto mare, che stanotte illumini l'oceano, lasciati ammirare come girasoli gialli di Van Gogh. Anche se vivessi su un altro pianeta, ti inseguirei per 10 chilometri correndo in salita. Guarda che figata che a volte è la vita. Se mi innamoro di te, e sembra quasi impossibile che mi innamori di te in modo irreparabile. E spiegazione non c'è, se il sole brilla anche quando è notte fonda e l'universo sbanda. Resterò da sola una settimana, è già un'eternità, e i ragazzini a scuola aspettano gli esami di maturità. Scrivo una canzone, te la leggo in una mail. Guarda che mi aspetto da te una risposta, sperando che sia proprio questa. E mi innamoro di te, e sembra quasi impossibile che mi innamori di te. Passione incontrollabile, e spiegazione non c'è, se il sole brilla anche quando è notte fonda e l'universo sbanda. Sai, l'universo sbanda e mi innamoro di te. Io mi innamoro di te. Così lontano da me, ma il sole brilla anche quando è notte fonda. Se l'universo sbanda e l'universo sbanda, stagione per restare soli, non c'è sorriso per lasciarsi andare, non c'è rumore tra le foglie nuove e il vento che mi parla, e il vento che mi parla e mi parla di te. E sembra quasi impossibile che ti innamori di me in modo irreparabile, e spiegazione non c'è, se il sole brilla anche quando è notte fonda. Per 10 chilometri correndo in salita, guarda che figata che a volte è la vita. E mi